Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. In tempo di crisi in Italia è boom dei regali riciclati. Un italiano su tre ricorrerà a questa strategia per evitare sprechi. Ma non è che soltanto in tempo di crisi venga la tentazione del regalo riciclato. È un'antica e radicata tradizione nel nostro paese il riciclo del regalo natalizio. Piacerebbe sapere quest'anno quale fantasioso escamotage avete trovato per riportare a uno stato di novità qualcosa che giace oramai da un anno, da più anni nei vostri cassetti, magari ancora confezionato con la carta natalizia di qualche anno fa, che non avete avuto nemmeno il coraggio di aprire sapendo l'orrore che celava. Questa mattina, uscendo da casa e venendo alla radio, ho visto la frenesia dell'ultimo momento, l'ansia di prestazione portata a livelli sublimi. Le persone stanno prendendo d'assalto i mercatini rionali, ce n'è uno in una piazza accanto a casa mia, i venditori di sconcezze natalizie che per pochi soldi permettono, con una adeguata e accurata confezione, di dare in mano qualcosa che assomiglia a un regalo, che permetta l'accumulo dei simulacri di regalo, che permetta di avere sotto l'albero di Natale comunque una bella montagnola di pacchetti confezionati che tutti apriranno con apprensione, battendo le mani, dicendo «Ah, è la cosa che ho sempre desiderato nella vita!» e tenere per alcuni istanti quella orribile bomboniera, quella caccoliera inutile, quello stappatore di bottiglie di aceto balsamico, le cose più improbabili che però naturalmente confezionate come regalo danno possibilità di mantenere ancora viva una tradizione. Quali regali state riciclando? Quali schifezze state impacchettando perché possa essere comunque soddisfatto anche quest'anno l'assurdo rituale che una volta l'anno occorre necessariamente presentarsi a qualcuno con qualcosa in mano, non desiderato, non richiesto, non utile, non scaturito da un sincero senso di affetto, di desiderio di essere vivacemente vicino a qualcuno, no, semplicemente perché è tradizione, bisogna fare i regali, non abbiamo più un soldo in tasca, eppure ancora andiamo in giro a raccattare sconcezze per regalare qualcosa. Tanto sarebbe meglio regalare scatole vuote. 800 24 00 24. Avete riconosciuto il regalo riciclato in quello che vi è stato dato questi giorni? Avete timore di trovare un regalo riciclato sotto il vostro albero? Magari vi ritorna indietro per una sorta di processo inarrestabile per cui il regalo schifoso gira, che ti rigira, ti ritorna sempre in mano come un boomerang? State meditando di riciclare qualcosa che avete già in casa per far contento qualcuno con quel maledetto regalo, così vi siete tolti questo peso, questo grande e obbrobrioso obbligo che è quello di fare regali? 800 24 00 24. Ciao a tutti. Periodo di Natale, periodo di regali, ma anche periodo di crisi. E allora in che modo non fare brutte figure con i regali senza mettere le mani al portafoglio? Per fortuna esistono i regali riciclati. Ecco, io per esempio avevo un vicino di casa quando ero piccolino che ogni 2 anni mi regalava un elicotterino di plastica. Era orribile, a me faceva cagare. E quindi glielo davo ai miei genitori che lo conservavano. Poi però si scordavano chi me lo avesse regalato e quindi arrivava Natale e dicevano che cosa regaliamo al figlio del vicino e gli riproponevano questo elicotterino di plastica. Poi il Natale seguente lui me lo ridava e mi diceva guarda che t'ha portato Babbo Natale. E quindi io ad un certo punto sono arrivato anche a scrivere una letterina a Babbo Natale, anche abbastanza arrabbiata. Caro Babbo Natale, se per 5 anni ti ho chiesto il Power Ranger rosso e tu per 3 anni mi hai portato l'elicotterino, c'è qualcosa che non va. Non so se sia il tuo udito per cui non capisci quello che ti dicono gli elfi, o la tua vista per cui non riesci a leggere le letterine, o forse l'Alzheimer. In ogni caso, hanno inventato delle ottime case di riposo con delle fantastiche ausiliarie. Ti consiglio di farci un pensierino. Ma vediamo con quale meccanismo... Questo signore mette in crisi la figura di Babbo Natale già da bambino, perché non si spiegava come mai i suoi desideri venissero così puntualmente disattesi. Non sapeva di essere vittima precoce e innocente, incolpevole, del rituale del regalo riciclato. Il regalo riciclato per bambini è una delle tante tipologie delle fattispecie più consuete nel riciclo dei regali, perché è facile, il bambino in fondo bambino degli altri, naturalmente, non il nostro. Ha poche pretese, quindi è facile rimpacchettare qualcosa che i nostri figli già hanno avuto in abbondanza, non hanno usurato. Un giocattolo che non abbiamo nemmeno scartato, che già ce l'avevamo. E quindi, tempo dopo, può diventare un fantastico regalo per una famiglia magari più indigente, che pensiamo che non se lo può permettere. Sì, perché dietro il regalo riciclato esiste sempre una spregiudicata indifferenza per il nostro prossimo. Meglio sarebbe non regalare nulla, meglio sarebbe dire alle persone: guarda, quest'anno ho deciso di non regalare nulla, però ti voglio bene, ti penso, ho voglia di passare 5 minuti con te, di fare due passi assieme, di scambiarmi qualche confidenza, di raccontarti qualcosa della mia vita. Molto meglio, sarebbe molto meglio una persona, visto che oggi esistono i social media, ma scrivete un messaggio, dite a una persona: ti ho pensato, gli arriva via Facebook, via Twitter, su WhatsApp, capito? Sai, ti ho pensato molto in questo momento, ho dedicato 2 minuti della mia vita al pensiero tuo. È molto meglio che andare a una bancarella e farsi incartare l'ennesima stella di Natale, o l'ennesimo babbo di Natale luccicante, o la stupidaggine della slitta con la neve, e regalare quello, perché è veramente una schifezza. 800240024. Alberto, buongiorno. Buongiorno Gianluca, un saluto alla Sardegna. Io volevo dire che in quanto a regali riciclati sono il numero uno, forse, perché... Beh, voi avete delle fantastici oggetti in sughero che, se uno vuole, si possono riciclare eternamente. Esatto, il sughero poi è praticamente quasi eterno, eterno. Si usano le accortezze necessarie, come lavarlo con la valicchina, poi risciacquarlo per evitare la formazione. Diciamo che un piccolo nuraghe in sughero con un po' di luccicanti stelline in Natale può andare avanti non so per quante generazioni. Esatto, hai messo qualcosa, io dicevo, perché sono proprietario del mercatino dell'usato, quindi io ogni anno prima di Natale vado in negozio, controllo qualcosina di bellino, di... adesso soprattutto mi sto indirizzando all'utile, quindi articoli per la casa, passa pomodoro, insomma, frullatori, cose così. Sì, i negozi, insomma, di masserizie per cucina vedo sono pieni, un bel mestolo di legno valore 20 centesimi, però con un fiocco rosso diventa un regalo divertente, un mattarello multiuso può diventare un regalo utile per mantenere l'ordine nella famiglia, non so. Esatto, giusto, giusto. E quindi io non ho problemi, proprio per quanto riguarda il riciclo, sono il numero, il re dei riciclatori. Ma qual è la cosa più schifosa che hai regalato indegnamente per un Natale? Allora, lì era un po' per ridere, però era voluto. Ho regalato un masticatore. Era una persona anziana che aveva problemi di dentatura, è tipo una forbice per portare le vigne, no? Però è fatta varie lamelle, serve per ridurre a piccoli listelli la carne, perché ha problemi, diciamo, di masticazione. Beh, è abbastanza schifoso come oggetto. Tu premasticavi, diciamo, la bistecchina e ti mangiavi la poltiglia. Diciamo una cosa del genere. Vabbè, ma però è un regalo, lo regali soltanto a persone estremamente bisognose di qualcuno che li mastichi. No, l'ho regalato un po' anche così per ridere, uno zio, diciamo, avanti negli anni, quindi però abbastanza con lo senso di humor. Diciamo che regalato a un'amica può sembrare addirittura un regalo ingiurioso, ti regalo un masticatore e potrebbe farne qualsiasi improprio uso, non certo ispirato alla quiete e alla santità del Natale. Grazie Dario. Alberto ha parlato, Dario allora, Dario. Ok, Dario. Salve, sono io. Andiamo io sul riciclo. Io in realtà un riciclo, però nel senso a buon fine e a buon vedere, ovvero fra i miei amici ci sono alcuni appassionati di dischi in vinile come me e magari quest'anno invece che comprare qualcosa riciclerò qualcosa dalla mia collezione di dischi, però privandomi e andando a fare un regalo. Questo è un regalo. Quest'anno fra l'altro sta andando in auge tantissimo il vinile. Fai un regalo di gusto, di prezzo, perfettamente in linea con il trend più seguito quest'anno. Non è che è un regalo riciclato, è come regalare un oggetto d'arte che abbiamo in casa, è una cosa di valore. Il riciclo è una cosa schifo, è una cosa di cui ci vogliamo liberare. Il regalo riciclato. Non è vero. No, se regalo una cosa a cui tengo molto, è un regalo bellissimo, molto più che lo vado ad acquistare. Se io costruisco qualcosa con le mie mani per regalarla, non è un regalo riciclato. Regalo riciclato, la cosa è inutile, io che ne so, questo mouse unto schifoso pieno delle briciole di 1000 panettoni già mangiati lo regalo a qualcuno, non mi costa nulla, anzi me ne libero, questo è il regalo riciclato. Gianpaolo, buongiorno, anche qualche signora mi piacerebbe, 800240024, perché le donne sono le massime riciclatrici, non vi nascondete dietro un dito, gli uomini in fondo dei regali possono anche infischiarsi, molti li fanno fare alle mogli, alle fidanzate, alle mamme, alle zie, non ci pensano, invece le donne sono molto brave e astute nell'arte del riciclo. Gianpaolo. Sì, buongiorno. Lei ha fatto un accenno poc'anzi agli oggetti inutili. Certo. Lei immagini che io 25 anni fa misi su un negozio proprio gli oggetti inutili di Gianpaolo. Senta, quindi ha dei fondi di magazzino che va avanti fino alla fine dei suoi giorni. No, no, ho chiuso subito dopo. Dopo un annetto ero geloso delle mie cose, ho venduto poche cose, me le sono tenute. E cosa ci fa? Mi guarda allo specchio, insomma. Vabbè, ma è una crisi da collezionismo compulsivo. Sì, sì, sì, infatti. Beh, lei è malato, non è un problema quello. Sono un fortunato. Comunque, io volevo riciclare. Io per tutti questi anni ho ricevuto parecchi regali spirituali. Tipo? Da tantissime persone. E cosa sono? Delle lettere, delle maglie con delle scritte. Ma che c'è di spirituale in una maglia? Beh, perché ti fa riflettere. Ci sono anche delle cose. C'è una maglietta con scritto ricordati che devi morire, questo è un regalo spirituale. Delle cose non verbalizzate anche. E io sono stato come un depositario, un magazziniere di queste cose. E oggi che io ho bisogno di amici, perché ultimamente la crisi mi ha stoppato anche con il lavoro, e sto cercando di dare un po' quello che ho immagazzinato di dare. Sì, ma faccia un esempio, che già io so lei vuole andare diciamo sul metaforico, tipo ti regalo questa massima di saggezza, ti regalo l'affetto che ho avuto, no, ti regalo molto Facebook. E cosa regala? No, è molto banale. In soldoni, no, ma regalo la mia presenza che non ho dato, sono andato settimana scorsa a dare gli auguri personalmente a una persona a Modena, sono stato. Vabbè, sta sanando i suoi sensi di colpa in vista del Natale. Sì, ecco. Vabbè, il regalo fa se stesso. Mica gli altri. Sì. Salute. Annalisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora io volevo dire che ho istituito questo nuovo filone nella famiglia di mio marito che aveva l'abitudine di fare sempre regali a tutti. Naturalmente, quella che più odia e disprezza sicuramente. No, no, no, no, non, assolutamente, no, nel senso no, che... No, ma lo dica, cioè, tanto è Natale, vale dire la pena, no, la verità. No, ma non lo dico perché non lo penso. Beh, le facevano, regalavano delle schifezze, non puoi non disprezzarli. Esatto. Cioè, sua socia le regalava delle cose orribili per mortificarla, lei vuol dire che non la disprezza. No, comunque... No, dica la verità. No, no, non è la verità, è che non mi piace ricevere regali, soprattutto quando non sono... Si vede quando non sono pensati per la persona, ecco, che sono fatti per farli. E cosa le regalava? Faccio un esempio, regalo più... Ah, non lo so, dei maglioni assurdi con degli uccellini, non so, ricamati sopra. Beh, vengono fatti... Scusi, questo è il tipico regalo da suocera nuora per mortificarla. Regalava delle cose brutte per mortificarla, le dava un cinicio. Allora devo... E non merita disprezzo questo comportamento. Ma forse sì. E allora vede, perché non dice la verità? Non lo so. Sia sincera, tanto lo so come va al mondo. Sua socia regalava delle cose orrende, dei maglioni che la ingoffivano per dimostrarle il suo disprezzo e il fatto che lei non valesse nulla. E questo giustamente ha interrotto questa catena dell'odio. Sì, con grande fatica. Perché sì, perché suo marito, naturalmente, la mamma, il maglione fatto con i ferri dalla mamma, anche io, mai fatto con la lana riciclata, di vecchi maglioni ancora puzzolenti. Oddio, è fortissimo, grazie. Grazie, finalmente grazie. Si è tolta questo peso dalla coscienza e affronterà l'anno nuovo con maggiore libertà. Melog, cronache meridiane. Si ricevono magari regali che sono o doppi oppure cose che non si usano oppure se abbigliamento che non va bene di poterlo riutilizzare e riciclare. Chiaro che se è un prodotto di qualità lo si riceve ugualmente volentieri pur se riciclato. Poi tutto sommato 80024 dedichiamo questa puntata ai regali riciclati. Poi io predico bene e bazzico male, domani sarà la puntata regina del riciclo perché sarà la puntata dedicata al libro infame. Ci libereremo degli infinità di libri ci mandano le case editrici ogni anno, perché facciamo recensioni, non recensiamo, ma regaliamo come libri infami. Quindi domani noi ricicliamo quello che abbiamo in casa, i nostri libri. Quindi preparatevi, domani regalerò libri infami a Bizzeffe. Poi devo fare un profondo e sentito esame di coscienza. Sono stato accusato nei pochi istanti del traffico da Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti di lasciarmi fare contento e coglionato. Dice: vedi, il signore, alla fine per sfinimento ti danno ragione. In realtà voleva dire tutta un'altra cosa. Quindi ho chiesto di richiamare Annalisa per sovrascrivere l'orripilante costrizione che ho fatto nei suoi confronti, di farle dire che in realtà la suocera le regala degli orribili maglioni schifosi per mortificarla. Scusi Annalisa, mi hanno accusato di aver sopraffatto la sua volontà, esprima liberamente il suo pensiero. No, no, lei ha ragione, probabilmente così. È così, era vero, era così. Non la facevo parlare, non poteva dire niente, parlavo io, vero? No, vabbè, il significato è quello. Vedi, allora mi dimmi la ragione. Un regalo così, non mi conosci, perché io non porterei mai una cosa del genere. Però mio marito era d'accordo di spezzare questa schiavo catena della madre, naturalmente. No, no, no, non ero schiavo, no, no, no. Beh, abbastanza condizionato. Questa catena di regali, perché anche per lui è uno stress inutile. Ma non solo la mamma, alle sorelle, ai fratelli, agli zii, ai nonni, a tutti. Cioè un vero basta. Inferno comunque, un vero inferno. Basta, sì, basta. Quindi lei è fortemente provata da questo rapporto logorante di anni con questa infernale famiglia. Non voglio sovrappormi a lei, dica quello che pensa serenamente. No, no, non sono così sottomessa, comunque. Beh, però lei lamenta un disagio. Sorelle, mamma, che condizionano il marito. Lamentavo, perché adesso questa cosa è finita. Si è trovata un altro marito? No, no, mi sono trovata che non facevamo più regali e quindi mi sono sollevata. E cosa dice la suocera e le nuore arrabbiate di questo? Beh, all'inizio erano inviperite. Sì, perché per loro è inconcepibile, è una famiglia di lunghe tradizioni, quindi questa cosa del regalo per loro era fondamentale. Che, regali schifosi poi, non richiesti. Scusi? Regali schifosi non richiesti però. Non richiesti, certo. E che fine hanno fatto quei maglioni? Sono diventate la lettiera per i suoi cagnolini? No, al riciclo, porta al mercatino del alla ragazzo. Caritas, certo. Qualche povero sì. Immigrato girerà col maglione marrone con gli uccellini azzurri, poverino. Il problema è che ho dovuto portarli per un periodo, per me stato... Ah, doveva anche metterli quando andava poi da casa loro? Fare ma come faceva a non metterli? Ma come faceva? Dava un calcio sulle palle al marito e diceva, svegliati, soffro. Oddio. Non era possibile. Beh, no, è prima. Guardi, io non mi voglio sovrapporre a lei, dica serenamente quello che pensa, però era un inferno questa famiglia. Sì, no, vabbè, e suo marito passivamente le costringeva a subire l'orrendo vituperio della famiglia materna. Ma ci ridevamo sopra. Beh, sì, lei ne è rimasta molto sofferente e colpita, vedo. Porta tracce indelebili questa sofferenza. Beh, comunque ho fatto contento Intonti e Rocchetti, vede, lei ha espresso liberamente il suo pensiero, io non l'ho condizionata affatto, ha convenuto alla fine con me che era una famiglia orribile, di una orribile suocera e orribili nuori che le costringevano a mettere maglioni che mortificavano la sua femminilità, e suo marito era complice di tutto questo. Salute Annalisa, Paolo. Quando uno è democratico è giusto che riconosca anche i suoi limiti. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ti volevo raccontare che ogni anno noi a Natale facciamo una cena tra amici di vecchia data, e alla fine di questa cena facciamo una lotteria. Ognuno dei partecipanti porta un regalo che ha ricevuto e di cui si vuole disfare e lo mette in palio a questa lotteria. Sì, alla fine, dopo 3 anni fate questa lotteria, sono sempre le stesse cose che girano. Allora, ci sono alcune cose particolarmente odiose e che quando viene messo in premio e in base ai numeri che uno ha e deve ricevere il regalo, ovviamente tutti sperano di non avere quel numero. Mi faccio l'esempio, qual è, diciamo, l'uomo nero dei vostri meravigliosi Natali? Sì, c'è una nave di vetro orribile che tra l'altro è anche delicata, per cui quando si porta da una cena all'altra e uno la deve conservare per tutto l'anno, probabilmente in garage, la deve anche conservare con cura per non romperla. Quindi riemerge ogni anno dalla profluvie del volersi bene natalizio come un cadavere che riaffiora da un fiume. Bene, Loretta, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Vicenza. Senta, io volevo molto condividere con lei il suo pensiero, che sono solo tradizioni, e in realtà il regalo per tradizione non ha nessun valore, a mio avviso, perché io è da anni che pratico questa cosa, che non faccio più regali con le tradizioni, ma le faccio quando il cuore me lo dice. Quando le va, quando vede una cosa che esatto, piace. Esatto, e vedo la gioia anche delle persone a ricevere un regalo quando non se l'aspettano. Però sotto Natale è socialmente reietta, nessuno l'avvicina, perché non facendo regali non ne riceve nemmeno. Non è vero, perché mi circondo di persone che capiscono questa cosa e di conseguenza apprezzano moltissimo il stare insieme, come ha detto a lei, la gioia della compagnia. Vabbè, lei vive in un presepe, beata lei, il mondo non è così. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Sì, vediamo cose vere, la vera vita, sennò... Ricevo puntualmente regali natalizi. Schifosi. No, bellissimi, devo dire. Per lo più ceste natalizie, quindi cibo, formaggi, vini. Vabbè, quello è il regalo migliore. È il regalo migliore, però ahimè io sono un ristoratore. E quindi non sa che farsene. Non so che farne, o meglio, so che farmene, però non voglio cadere in tentazioni e quindi... E quindi lei regala salumi e formaggi, che è un bel regalo. Salumi e formaggi. Io trovo un regalo migliore sotto Natale, un bel tocco di parmigiano, un bel ciauscolo fresco. È tutto quello che ricevo, però insomma, non che non gradisco, perché poi tornano utili quando andiamo magari alle cene, dagli ospiti, invitati, eccetera. E quindi riciclo a fin di fare. Tra l'altro, vede, il regalo culinario è bello perché è facilmente riciclabile. Io l'altro giorno sono andato alla festa di amica, avevo una bottiglia di vino che mi hanno appena regalato. È facilissimo, mi toglie il problema di dover andare a scegliere un regalo. Vado nei cesti. Ma si può ammettere che è un riciclo? Ma sì, ma perché una bella bottiglia di vino, che vuol dire? È mia. Una volta me l'hanno regalata, è mia. Se te la regalo, ti regalo il valore di quella bottiglia, me ne privo io. E la stessa vale per il salame, la salsiccia, il barattolo di confettura, i sottoli, tutte le belle cose che girano per Natale. Abbiamo individuato un filone utile. Marco, buongiorno. Pronto? Eccomi. Sono qua. Allora, io mi sono liberato dal regalo riciclato e da fare regali riciclati. 30 anni fa, o quasi 60 anni, 58, 30 anni fa, comprendendo un gran buon coraggio, ho detto a una compagnia dove ci trovavamo a Santo Stefano a farci tutti questi regali che mettevamo puntualmente nel cassetto. Io ho fatto un annuncio e ho detto: questo è l'ultimo anno che io vi regalo qualcosa, perché non sopporto più spendere il mio tempo in queste stupidate. E quindi ha messo ha fatto il bauletto delle schifezze che ripropina ogni anno. E allora io ho detto d'ora in poi non vi regalo più niente. L'anno dopo ho ricevuto dal 50%, perché l'altro 50% non ce l'aveva creduto. L'anno dopo ancora ho ricevuto il 30%, l'anno dopo il 20%, poi mai più nulla. Guardi, qui posso dire una cosa, citandomi, ahimè, anche se a volte può sembrare sgradevole, la stessa cosa accade con me da anni. Io da anni tutti sanno che non voglio regali, che ci rimango male. Esprimo una tale delusione, un tale disprezzo quando qualcuno mi regala qualcosa, che la gente ha paura di farmi regali. Io sono felice, allora, sono felice. E io sono felice, io odio i regali. Mi spiace, non mi piacciono. A me piacciono molti regali e io li faccio se hanno un senso. Ma a me piace una cosa che mi danno il momento che capisco che è un pensiero. Piuttosto che il 3 di agosto. Benissimo, siamo d'accordo. Un regalo è una maniera subdola per ricordarti una scadenza, una ricorrenza, una festività che potresti condividere anche su altri piani. Devo correggermi, una signora scrive, dice: tu hai messo fra le cose schifose anche l'aceto balsamico. No, ascolti bene, ho messo lo stappatore di aceto balsamico, che è un oggetto inutile, perché la bottiglia di aceto balsamico si stappa normalmente come ogni bottiglia, ma era un paradosso, imparate l'uso del paradosso. Marco detto Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno Paolo. Sì. Gianluca, buongiorno. Chiudiamo con lei. Praticamente i miei nonni regalavano a mio padre qualche anno fa, al figlio, un dopo barba, sempre lo stesso. Mia madre, dato che era un dopo barba scelto dai miei nonni, non è che fosse proprio all'ultima moda, insomma. Sì, sì. Però comunque era più che accettabile. Però mia madre era stato il Floyd, quello che usavano una volta i barbieri. No, era un altro, però tipo, vabbè, più o meno. Sì, vabbè. Con quell'odorino antico di cose scadute, vecchie, sì, ecco, di bancone di vecchia bottega che non mette più nessuno. Sì, quello che ancora mettono soltanto i preti di campagna, gli assicuratori di campagna. Sì, quegli odori che rimandano proprio. I venditori di aspirapolvere, orrendi, quegli odori che ti impregna. E allora? Sì. E praticamente mia madre vietava a mio padre di metterlo, e il Natale dopo lo teneva dentro uno scaffale, il Natale dopo lo regalava a mio nonno. Che lo regalava al figlio, dimenticandosi che gli aveva già regalato. Praticamente riciclava e vabbè, il moto perpetuo del dopo barba è anche una maniera per mantenere in vita la ruota dell'esistenza. Domani la puntata principe del riciclo, libri infami per tutti, preparatevi.